No, non mentire. T'hanno vista domenica sera passeggiare con quel vanitoso. E non dir che non è verità, non dir di no. Vorrei sapere, sono gli altri o sei tu a mentire? Non restare di stucco a guardare, se ti parlo di cose che sai, sei stata tu, sei stata tu. Sotto la pioggia tua attesa, ma tu, no, non mi amavi già più. I miei amici rideranno ancora per poco, ma ricordati quel che ti dico, da domani mai più mi vedrai, mi cercherò un altro già tua attesa, ma tu, no, non mi amavi già più. I miei amici rideranno ancora per poco, ma ricordati quel che ti dico, da domani mai più mi vedrai, mi cercherò un altro.